devi parlare come Dio comanda, non devi parlare, essere volgare. Vabbè, per dirti minorato cosa è? Quella è un'offesa, scusa. Scusa, Se io ti dico a te che tu hai il muso nel naso, ti offendi. Beh, certo, e la pipì addosso non me la faccio. Infatti non ti ho detto niente, visto? Se hai notato non ti ho detto niente, ti sto rispettando, così devi fare tu. Scusa, ti sei offeso, per così poco ti offendi. Rispetto porta rispetto, se tu non rispetti allora io ti mando a quel paese. Aspetta un attimo. Va bene, ok, sono qua, per poco ma ci sono.